Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dagli Stati Uniti, dove abbastanza sorpresa l'economia nei primi tre mesi dell'anno è cresciuta meno del previsto, più 0,1%, un dato sensibilmente peggiore rispetto alle attese. Ci si attendeva una crescita dell'1,2%, questo nel giorno in cui fa molto discutere l'analisi del Financial Times, che oggi scrive in prima pagina, citando uno studio condotto dall'International Comparison Program della Banca Mondiale, che sostanzialmente ha preso in esame il costo della vita reale, quindi la parità di potere d'acquisto, e andando a vedere, alla luce della parità di potere d'acquisto, come vanno, quanto cresceranno le varie economie. In questo modo la Cina, secondo questa riclassificazione del PIL, è pronta a diventare la prima economia mondiale, sorpassando già da quest'anno gli Stati Uniti e mettendo fine a un primato che gli Stati Uniti avevano dal 1872. Quindi, secondo, utilizzando il PPP, come si chiama in gergo, cioè parità del potere d'acquisto, perché sappiamo che poi i prezzi all'interno di ogni paese sono diversi, quindi dire che tu guadagni $1,000 equivalenti o 1000 euro è molto diverso secondo il costo della vita, ma mettendo in evidenza la parità di potere d'acquisto, il PIL cinese è stato pari nel 2011 all'87% di quello americano. Ma sulla base della crescita, per cui la Cina tra 2011 e il 2014 è cresciuta del 24% contro il 7,6% degli Stati Uniti, probabilmente, dicevo, la Cina supererà quest'anno gli Stati Uniti come prima economia al mondo. La terza è l'India e la classifica dei primi 12 paesi include anche Russia, Brasile, Indonesia e Messico. Questo nel giorno in cui arrivano anche dati buoni dalla Spagna. Il PIL spagnolo è cresciuto dello 0,4%, è il livello più alto, anche se è un livello basso, mi rendo conto, ma è il livello più alto in Spagna da 6 anni a questa parte. Ricordo che la Spagna aveva chiuso il 2013 con un calo del PIL dello 0,2%. L'inflazione torna un po' a crescere, questo è l'altro tema che affronteremo oggi, soprattutto sul fronte italiano e europeo, perché l'inflazione in Spagna ha fatto più 0,4% dopo 3 mesi di deflazione vera e propria, di prezzi in calo. Nell'euro a 18 l'inflazione ha fatto più 0,7%, leggermente più alta dello 0,5% di marzo, e anche in Italia è leggermente risalita dopo 10 mesi di continui cali, più 0,6%. Perché continuiamo a parlare di inflazione? Perché sappiamo, paradossalmente, che in questo periodo il problema non è l'inflazione ma la deflazione, ossia il rischio che i prezzi crescano troppo poco e soprattutto che calino, un rischio su cui sta mettendo, insomma, tutta il faro e accendendo tutto il faro possibile la Banca Centrale Europea, che è pronta a intervenire qualora fosse dimostrato che l'Europa ha un rischio serio di deflazione. Devo dire che un'inflazione che dallo 0,4 va allo 0,6 non è dallo 0,2 allo 0,6 non è un grande cambiamento di tendenza, anche perché, e qui mi riferisco all'Italia, i prezzi misurati sul cosiddetto carrello della spesa, quindi beni a maggiore frequenza, rallentano più 0,4% ai minimi dall'agosto del 2010, nel giorno in cui scopriamo che la disoccupazione resta ai massimi, anche se leggermente calata rispetto al mese prima, comunque al 12,7%. La disoccupazione giovanile anch'essa resta ai massimi, anche se non aumenta, al 42,7%. Il ministro dell'economia Padoan ha detto attenzione, bisogna aspettare ancora per giudicare, sappiamo che la disoccupazione è elevata, le cose cambieranno, ma è presto per poterlo dire. E lo stesso Padoan ha detto che vi sarà una sorpresa, potrebbe esservi una sorpresa positiva, in positivo, sulla crescita economica italiana nei prossimi mesi, e ha aggiunto Padoan di non vedere nell'immediato futuro un forte deprezzamento dell'euro, dopo aver elogiato l'attività svolta dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha detto Padoan, con le misure messe in piedi da Draghi si sono eliminati i rischi di una disgregazione dell'euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Quindi parleremo di Stati Uniti e così della classifica delle economie mondiali, parleremo anche della nostra inflazione e disoccupazione, e avremo un aggiornamento sull'Alitalia, perché dopo un mal di pancia francese adesso sembra che Air France sia pronta, se Etihad confermerà il suo ingresso con il 50% del capitale in Alitalia, a metterci anche lei una fiche più pesante, a partecipare, diciamo, a un piano di rilancio di Alitalia. Dicevo 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e rapidamente le altre notizie in breve, partendo proprio dalla borsa. Allora, vedo una nota, ancora molti messaggi sul tema che ha trattato Oscar Giannino prima di me, e cioè la liberalizzazione dei negozi. Chiaramente non torno sul suo tema, faccio solo notare che in molti paesi occidentali vi è maggiore liberalizzazione dei negozi, ne abbiamo parlato molte volte anche in questo programma. Nessuno vuole schiavizzare il piccolo commerciante, però diciamocela tutta, non ci si può continuare a lamentare se la grande distribuzione ruba spazio al mondo del commercio quando offre orari più flessibili. Allora, continuare a immaginare un mondo in cui, che era un mondo di 30-40 anni fa, in cui molte donne non lavoravano e avevano tutto il tempo che volevano per andare a fare la spesa, e immaginare un mondo in cui invece abbiamo una quota sempre più importante di donne che lavorano, di uomini che lavorano. Negli altri paesi europei c'è più flessibilità negli orari, da noi si è rimasti ancora con le chiusure settimanali. O decidete, uno può tenere chiuso la domenica e tenere aperto lunedì, un altro terrà aperto la domenica e terrà chiuso lunedì. Il problema è che avere questa rigidità ancora in molti orari degli esercizi commerciali non fa bene a loro in primis. C'è qualcuno che scrive: ma non è che se io devo comprare una zucchina ne compro di più se ho gli esercizi commerciali aperti? Sì, invece è proprio così, nel senso che è dimostrato che quando uno si reca, quando l'offerta c'è e gli esercizi commerciali sono aperti, uno tende anche a acquistare più spesa, o comunque essere più propenso all'acquisto, un po' come la polemica sempre dei commercianti sui centri storici chiusi al traffico, sembrava che dovessero chiudere i negozi, poi abbiamo visto l'esatto contrario, e cioè che in realtà la pedonalizzazione dei centri storici ha portato a un maggior stimolo all'acquisto, non a un minor acquisto. Per cui attenzione ai falsi miti e alla difesa, diciamo, puramente corporativa dell'esistente. Poi uno fa quello che vuole chiudere in pausa pranzo, vuole chiudere la domenica, e io, se devo fare la spesa la domenica, andrò in un centro che è aperto, fine. Poi non vi lamentate però se la grande distribuzione rischia di danneggiare seriamente gli esercizi commerciali. Andiamo avanti, dicevo, la borsa, meno 1,14% Milano, meno 0,50% Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, invariata anche l'America in questo momento. Monte dei Paschi è il peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 4%, Pop Emilia Romagna meno 3,20%, Tenaris meno 2,90%, Gtech meno 2,70%, Unicredit meno 2, Fiat meno 1,90 come Banco Popolare e Saipem, l'1,60 lo perde UbiBanca e UnipolSai, ma anche Buzzi e Unicem. L'1,5 è il calo di Intesa San Paolo, di Mediolanum, di World Duty Free, ma anche di Enel. Chiudiamo con Atlantia che perde l'1,40, Autogrill che perde l'1% come Generali ed Eni, e Mediobanca e Tods. Aggiungo anche Campari che perde lo 0,95%. Di positivo c'è soprattutto Telecom Italia più 2,70% e Mediaset più 0,50% come Prismian e la Pop Milano. Ancora per quello che riguarda i dati sulla disoccupazione, faccio notare che ne parleremo alle 18.10, per cui abbiate un po' di pazienza sui dati. C'è stata anche una revisione degli ultimi dati, degli ultimi mesi sulla disoccupazione. Su questo una battuta di Susanna Camusso domani, il 1° maggio, sarà la festa della disoccupazione più che del lavoro. Facciamo il 1° maggio all'insegna del tema della disoccupazione più che della festa del lavoro. Anche i dati che l'Istat ha distribuito oggi, seppur dentro, come dire, lo 0,1 di crescita del mese, danno un trend annuale che comunque continua a crescere la disoccupazione. E poi segnalo un'intervista dell'ex premier Mario Monti al Wall Street Journal, che dice: abbiamo evitato, il suo governo ha evitato che l'Italia diventasse la Grecia, dalla Germania, ma anche dal Fondo Monetario Internazionale e dall'investitore privato, forse il più famoso al mondo, George Soros, era arrivato un invito all'Italia a chiedere qualche sorta di salvataggio, ma io ho detto assolutamente no. E poi ripercorre i suoi mesi al governo, le chiamate con il presidente Barack Obama, che chiamava abbastanza spesso per sapere quello che accadeva in Italia nell'area euro. Nell'anno elettorale Obama non poteva permettersi un'eruzione nell'area euro. Poi anche casi più interni. Monti ricorda la forte opposizione dell'ENI, l'ENI guidata allora da Paolo Scaroni, alla nostra proposta, alla proposta del governo di separare la proprietà dalla produzione e dalla distribuzione del gas. Poi continua: sono arrivato a Roma come qualcuno che arriva da Marte, avevo un grande vantaggio, non ero legato ad alcuna rete di potere grigio, ma avevo il grande svantaggio di essere un outsider. Io e mia moglie non siamo praticamente mai stati invitati a una cena a Roma, eravamo visti come oggetti estranei. Vabbè, dai, anche se uno non viene invitato alle cene romane, bisogna vedere che cene sono, se ha un senso andarci. Questo anzi potrebbe essere quasi un elemento, una medaglia, non essere invitati a certe cene romane. Il problema è che poi Monti non ha saputo fare la fase 2, è rimasto un po' marziano, possiamo dirlo usando le sue parole. Ancora all'Italia, ne parleremo, vertice a Palazzo Chigi tra il premier Matteo Renzi e il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. In discussione chiaramente le condizioni di Etihad per entrare col 50% nell'Italia. Tra l'altro, oltre ai malumori che sembrano trapelare da Parigi, dove Air France non vedrebbe di buon occhio il fatto che l'Italia possa accettare condizioni peggiorative rispetto a quanto proposto originariamente dalla compagnia franco-olandese, adesso però ci sono alcune dichiarazioni di Lupi che dice: il piano Etihad sarà valutato sull'ipotesi di rilancio, se rilancerà all'Italia. Fonti interne ipotizzano tagli fino al 20% gli stipendi e stop agli scatti aziendali. I sindacati dicono che è una misura che varrebbe 125 milioni. Però poi è arrivata una dichiarazione di Air France che perlomeno sembra fare buon viso a cattivo gioco. Dice infatti: se Etihad investirà in Alitalia, anche noi potremmo investire quote ulteriori in Alitalia. Questo mentre il consiglio di amministrazione di Alstom, colosso francese, ha detto di essere pronto a valutare l'offerta di General Electric da 12 miliardi e 3, ma non ha chiuso la porta all'offerta ben più gradita dal governo francese, che pure non avrebbe voce in capitolo perché non ha neanche un'azione di Alstom. Dicevo, non chiude le porte all'offerta della Siemens. Adesso ci spostiamo al tema dell'America. Una risposta veloce: c'è chi mi dice, ma allora perché lei non lavora la domenica? Io ho solo detto sugli esercizi commerciali, io non dico che debbano tenere aperti i negozi la domenica, dico solo che vedere tutti i negozi di un certo tipo che aprono tutti allo stesso orario, chiudono tutti con lo stesso orario, forse non è il massimo dell'offerta. Uno può tranquillamente non lavorare la domenica. Se poi io, che la domenica non lavoro e ho tempo libero per fare la spesa, vado da chi è aperto, non si deve lamentare, tutto qui. Cioè basta non chiedere, come sembra dalle volte da parte del mondo del commercio, che anche la grande distribuzione non apra la domenica. Cioè voglio dire, allora, se c'è libertà per tutti, lasciamo liberi tutti di aprire e chiudere quando vogliono, e poi saranno i cittadini, quindi i clienti, a stabilire se ha senso che tu tenga aperto o no la domenica, perché non ti viene nessuno, non avrà senso. Se invece hai molta gente che approfitta dei giorni in cui non lavora per fare la spesa, per fare gli acquisti, per andare dal barbiere, per andare a comprarsi un abito o fare la spesa, vorrà dire che forse è funzionale anche un'apertura la domenica. Ma non ho capito perché io devo impazzire nelle pause pranzo, vedere le mamme che corrono prima che il negozio chiuda alle 7:30 per comprare il cibo, ancora nel 2014, come se fossimo nel mondo dell'Italia degli anni 60. Detto ciò, spostiamoci in America, terra che ha tanti problemi, ma sicuramente non ha quello delle liberalizzazioni. Come critica costruttiva, lei dice, chi mi scrive, lei dice tante sciocchezze di base, Barisoni, figuriamoci se lavorasse anche la domenica, meglio che si riposi. Perfetto, siamo d'accordo su questo. Mario Platero in collegamento con noi da New York, che lavora la domenica, ogni tanto sì, ogni tanto no. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano, eccoci. Allora, non voglio parlare delle liberalizzazioni nel commercio negli Stati Uniti. Beh, ormai siamo nel 24/7, Sebastiano, dovrebbero capirlo anche i nostri ascoltatori, ma questo è un altro discorso. Sì, ecco, in America 24/7 vuol dire negozi spesso aperti 24 ore 7 giorni, dopodiché, adesso non voglio fare la puntata su questo, è chiaro che se vai a fare la spesa alle 11 di sera probabilmente avrai un esercizio commerciale che è più caro, penso alle catene 7-Eleven, ma non solo, e invece se vuoi risparmiare andrai in un altro esercizio commerciale, ma basta avere la libertà di scegliere, no? Esatto, assolutamente no, perché ragione. Io del barbiere chiuso a lunedì mattina non ce l'ho con i barbieri, ma insomma ancora mi sembra di essere, se no rimetto Troisi e Benigni con un fiorino, quando con le corporazioni. È uno, il barbiere, ci sarà chi apre il lunedì, chi vuole aprire la domenica, e se io ho un'emergenza vado la domenica, ma adesso poi la smetto veramente. Ma vi siete mai resi conto del perché i cinesi a Milano, a Roma, a Firenze, a Bologna stiano rilevando tutte queste centri estetici? Sapete perché, a detta diciamo delle donne, delle colleghe che conosco? Perché spesso sono aperti la domenica o il sabato sera e uno va a farsi le unghie, il manicure, nel momento in cui può. Non ci si deve lamentare, oltre che per i prezzi, va bene? Allora forse la flessibilità è anche un bene, ripeto, ma non un obbligo, un bene. Detto questo, Mario, che succede agli Stati Uniti? Perché da un lato abbiamo visto un'economia sì, rallentare più del previsto, dall'altro il Financial Times oggi pubblica questa classifica sul fatto che, considerando il PIL alla luce del potere d'acquisto, parità di potere d'acquisto, la Cina supererà gli Stati Uniti già da quest'anno. Partiamo però dal dato sul PIL che a sorpresa ha frenato, prego. Sì, ha frenato 0,1%, devo dire crescita vicino allo zero, non ce lo aspettavamo, perché il dato di previsione era dell'1%, intorno all'1,1%, ma quello che è successo è che abbiamo avuto un inverno durissimo, non so se qualcuno è passato dagli Stati Uniti durante questo inverno, ma è stato un inverno freddo, lungo, lunghissimo. Oggi a New York piove, abbiamo 6 gradi, è un inverno che sembra non finire mai. L'altro giorno sono atterrato a Detroit e parliamo di fine aprile e c'era la neve. Ecco, queste condizioni atmosferiche difficili finiscono per avere un impatto sull'economia. Potremmo dire no, non è possibile nell'era di internet moderna, eccetera, questo non può succedere, invece succede. Come? I trasporti rallentano, i treni si fermano, la produzione rallenta, la gente non riesce ad andare in ufficio e così via, così via. Questo per dirti che cosa, Sebastiano? Diciamo, l'interpretazione di tutti è che si tratti di un rallentamento temporaneo, di un rallentamento che non si ripeterà nel secondo trimestre, e abbiamo già avuto dei dati tutto sommato interessanti per il secondo trimestre, con beni durevoli in aumento, con consumi che sembrano tenere abbastanza bene. Venerdì avremo il tasso di disoccupazione, ma secondo anticipazioni dovrebbero esserci un aumento di circa 100.000-120.000 occupati. Quindi il quadro di fondo resta tutto sommato rassicurante. Vedremo se condividerà questa opinione la Federal Reserve, avremo più avanti il comunicato, c'è stata la riunione del Federal Open Committee, si chiuderà oggi, l'impressione di tutti è che la Fed continuerà nella sua manovra di rallentamento degli acquisti di bond e titoli immobiliari sul mercato con altri 10 miliardi, non si lascerà, come dire, impaurire da un dato congiunturale che potrebbe essere stato solo un singhiozzo. Questo è un po' il quadro di oggi. Quindi una variabile molto, diciamo così, meteorologica, non un rallentamento del ciclo, se posso dire. L'idea è quella, l'idea è che l'economia americana continui a procedere relativamente bene con un tasso di crescita che potrebbe assestarsi attorno al 2%, ma non dimentichiamo che nel frattempo, in questi anni, dalla fine della crisi al 2009 a oggi, sono stati creati 7-8 milioni di posti di lavoro, quindi c'è stato un forte recupero, il tasso di disoccupazione è ben al di sotto del 7%, insomma siamo in una situazione tutto sommato rassicurante. Però ecco, qualcuno dice ma che forse non ci troviamo davanti a un momento di pausa perché l'economia ha corso troppo, perché ci sono stati stimoli eccessivi da parte della Fed, è stato davvero scontato fino in fondo il fatto che la Fed comincerà a ridurre queste sue manovre d'acquisti? Ecco, secondo me sì, secondo me è stato scontato, la Fed ha preparato il terreno per molti, molti mesi, ha chiarito che i tassi di interesse resteranno bassi e quindi la Fed agirà su quello. È indubbio che l'economia americana deve cominciare a mettersi su un percorso più di normalità. Siamo fuori dalla crisi, stiamo entrando in un contesto congiunturale e questo dato è un dato negativo per le questioni atmosferiche. Questo è più o meno la lettura generale, il consenso sulla lettura degli analisti, ma anche dei mercati, perché i mercati non hanno reagito particolarmente. Ecco, approfitto per darti una notizia, dimmi. Nel frattempo, perché poco fa abbiamo saputo che l'Italia è stata tolta dall'ufficio degli US Trade Representative, l'ufficio rappresentante commerciale americano, dalla watch list per quei paesi che erano considerati sospetti o pericolosi per violazioni di copyright, di diritti d'autore e così via, così via. È una notizia di pochi minuti fa, ma ho pensato di condividerla con hai fatto bene. I nostri ascoltatori, perché era da 25 anni, pensa, che l'Italia era in questa watchlist. Cosa sorprendente, perché poi sono gli altri che copiano noi. Sì, di solito siamo noi che ragioniamo sull'Italian sounding anche negli Stati Uniti, dove abbiamo visto salami vari e parmigiani con 4G vengono venduti Parmesan, sì, venduti al posto di, pensate che da soli l'Italian sounding, cioè il cibo che viene spacciato legalmente per italiano ma non è italiano, vale 60 miliardi di euro, cioè vale due volte quello che esportiamo come export dell'industria alimentare. Mario Platero, qualche reazione invece in America dall'apertura del Financial Times, che dice: attenzione, se misuriamo il PIL in base al potere d'acquisto equivalente dei vari paesi, la Cina già quest'anno supererà gli Stati Uniti. Era un record che gli Stati Uniti mantengono, perché ancora esiste, dal 1872 come prima economia del mondo. Ma guarda, ci sono sempre polemiche su quelli che sono gli elementi macroeconomici a fare da punto di riferimento per valutare la dimensione di un'economia. Ti dico questo perché sono state forti polemiche nel contesto del Fondo Monetario quando si trattava di fare i cambiamenti delle quote, i cambiamenti del capitale e così via, e il calcolo tecnico prevede anche un'ipotesi di tener conto del potere d'acquisto. Alcuni paesi lo rifiutano, altri lo vogliono, paradossalmente sono gli Stati Uniti che chiedono che il potere d'acquisto sia incluso. Non mi sembra che ci sia da sorprendersi che la Cina possa superare gli Stati Uniti dal punto di vista economico, è solo questione di tempo, era solo questione di tempo. E quindi sta capitando, forse prima qualcuno diceva il 2018. Sì, 2019 era la data, però diciamo con questo calcolo. Esatto, 2018, per cui che succeda poco prima, direi non cambia nulla. La Cina è un enorme paese, ma il reddito pro capite cinese, al di là del potere d'acquisto, il reddito pro capite resta estremamente basso, e dunque gli Stati Uniti continuano a essere comunque il paese più ricco, anche se non l'economia principale. Insomma, parliamo di 340 milioni di abitanti contro oltre un miliardo, i numeri contano e conteranno sempre di più. Un'ultima domanda, Mario Platero, questa sera c'è il FOM, che è quindi il Federal Open Market Committee della Federal Reserve, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale Americana, mettiamola così. Novità, sorprese, oppure resterà una linea, la Yellen continuerà nella sua linea di un lento una lenta riduzione dello stampaggio di moneta? Ma guarda, come ti dicevo prima, secondo me la IL non reagirà in modo impulsivo al dato di oggi sull'economia, ma questa è una mia opinione, siamo tutti in attesa della decisione, le previsioni sono che ci sarà un altro taglio di 10 miliardi di dollari al mese di acquisti sul mercato obbligazionario e su quello dei titoli immobiliari. Resterà la politica dei tassi di interesse bassi, attenzione perché questa è la discriminante importante. La Federal Reserve ha promesso che qua probabilmente fino alla fine del 2015 o comunque per buona parte del 2015 i tassi di interesse resteranno vicini allo zero. Ricordiamolo, le manovre di intervento del QE3, del quantitative easing, erano delle manovre di intervento temporanee proprio per aiutare l'economia. La manovra ha funzionato, l'economia si è ripresa. Questo dato di oggi, ripeto, è un dato secondo me dovuto a fattori stagionali, ma aspettiamo, fra qualche ora avremo il risultato. Credo che non ci saranno sorprese. Grazie Mario Pratero, corrispondente su 24 ore dagli Stati Uniti, in collegamento con noi da New York. Adesso, prima di arrivare al meteo, devo dare qualche risposta, perché vedo che il tema delle aperture degli esercizi commerciali suscita molti mal di pancia. Allora, nell'ordine, non ho e non abbiamo mai detto che uno debba stare aperto 7 giorni su 7, per cui si è solo detto se c'è una flessibilità, uno sarà aperto il domenica e chiuderà il lunedì e martedì, un altro negozio equivalente sarà aperto lunedì e martedì e chiuderà la domenica, per cui a chi mi scrive alla domenica si chiude, si fa riposo, secondo lei non dovrei neanche andare a messa con la famiglia perché voi dovete solo far girare il dio denaro, chiamiamolo a questo punto anche sterco del diavolo, così il cattocomunismo è totale. Ma chi l'ha mai detto? Se lei giustamente ritiene, perché deve andare a messa o fare altre cose, di tenere chiuso la domenica, terrà chiuso la domenica. Se qualcun altro invece preferisce aprire la domenica perché avrà i clienti che possono andare quel giorno, resterà aperto la domenica e chiuderà il lunedì. Nessuno sta dicendo di lavorare 7 giorni su 7. Non capisco perché qualcuno mi scriva che in questo modo favorirei solo i cinesi. Non mi sembra, guardi, che i cinesi abbiano bisogno del mio appoggio per comprarsi i bar o i centri estetici delle città italiane, lo fanno già e basta. La mia era una proposta, e è inutile che mi ricordiate in alcuni casi in Germania non è così. Ho capito, in Gran Bretagna no, allora cosa facciamo? Dico solo, se c'è un problema di concorrenza si risponde con un altro tipo di concorrenza, non chiedendo che anche la GDO, la grande distribuzione, sia chiusa la domenica, e considerando che se io devo venire a fare la spesa o tagliarmi i capelli o avere qualunque tipo di servizio, sono io che mi devo adattare agli orari del mondo del commercio. Ma questo è assurdo, ma sarà il mondo del commercio che si adatta ai miei orari. Vale anche per le poste, avete ragione, ci mancherebbe. Vale anche per le banche, infatti se non ricordo male qualche gruppo bancario ha iniziato a aprire sabato mattina, ci mancherebbe, non vale solo per i commercianti. È chiaro però che il mondo del commercio è quello più sottoposto alla concorrenza della grande distribuzione. E anche lì è inutile che mi diciate allora cosa dobbiamo fare, quelli hanno i numeri, diversifica, probabilmente riuscirai a dare un servizio che il grande centro commerciale non riesce a dare, se hai un negozio di prossimità avrai anche altri servizi, però in qualche modo la devi prendere. Continuare a dire che venite uccisi dalla grande distribuzione, che vuol dire poi cosa facciamo, chiudiamo e blocchiamo la grande distribuzione, è antistorico e tanto, voglio dire, non è la mia posizione che vi risolve i problemi. Sui caffè, sui bar ai cinesi, adesso io capisco, però attenzione, io poi non so, abbiamo parlato molte volte e questo è assolutamente illegale, se ci sono lavoratori in nero e i negozi cinesi vanno controllati tanto quanto i negozi, diciamo, di altri, degli italiani, però scusatemi, i bar che hanno comprato spesso i cinesi non erano i bar di pregio, erano bar in cui tu sostanzialmente non avevi nessun valore aggiunto. Faccio un esempio e poi andiamo col meteo. Il successo della catena americana Starbucks di caffè. Sapete a cosa è dovuto? Sì, al prezzo, tutto quello che volete, ma anche al fatto che uno entra in Starbucks, si beve un caffè, può stare dentro quanto vuole, collegato con il wifi, e questo è un valore aggiunto. Non ha qualcuno che gli dice: mi scusi, ha finito, si alzi per favore che c'ho altri clienti. E hai un servizio standard, quello è il servizio. Se non hai servizio, è chiaro che poi ti compra un cinese, tanto per fare il caffè come lo facevi, per non avere un minimo di tavolino, e non parliamo del wifi dentro il bar, e va bene, eh? E 42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, vabbè, adesso commentiamo la borsa. Dunque, poi scrive un'ascoltatrice: e poi ci lamentiamo che le famiglie vanno a rotoli. La domenica è per la famiglia e la gente che lavora vorrebbe stare con loro. Ecco perché vanno a rotoli le famiglie. Sono una commerciante, Donatella da Parma. Adesso, Donatella, per carità. Cioè, ma adesso stiamo sostenendo che se ci fosse l'apertura degli esercizi commerciali la domenica andrebbero a rotoli le famiglie. Mi sembra che vadano già a rotoli per i fatti loro. Dopodiché sarebbe interessante capire se fa più danni una mamma o un papà che va con tranquillità a fare la spesa un'ora la domenica perché ha gli esercizi, o va dal barbiere o va a comprare le scarpe per il figlio la domenica, o se fa più danni la stessa mamma o lo stesso papà quando torna isterica dal lavoro e deve correre, fermarsi a comprare il latte perché sennò non c'è il latte per il giorno dopo. Cioè, nel 2014 ancora, capito, quella che corre o quello che corre a comprare il latte perché alle 7:30 chiude tutto, manco finisse il mondo. Vediamo qual è il danno più grosso per la famiglia. Io non sono uno psicologo, no, men che meno neonatale o comunque della famiglia, per cui non so, magari anche la mamma o papà isterico perché ha dovuto fare la spesa con la saracenesca che si abbassa fa un danno alla famiglia, che ne so. E va bene, ripeto ancora l'ultima volta, non ho mai detto che uno deve aprire 7 giorni su 7, solo avere più flessibilità di orario se possibile. Ancora basta perché c'è chi mi fa notare che la messa esiste anche il sabato, e va bene, e che e chi lavora nei centri commerciali e negli outlet è sfruttato, capito, ma questo è un altro tema, okay. Dopodiché ribadisco, così come altre attività sono aperte, è giusto che venga aperta anche la pubblica amministrazione in orari che permettano alla gente che ha un lavoro ad andarci, ci mancherebbe, d'accordissimo. E non vale tanto per, solo per le banche, ma proprio per la pubblica amministrazione, che ha orari indecenti, che ha orari medievali, quello sì, per cui se devi rinnovare una patente, hai un documento, devi stare lì in fila, perché tanto sempre in orario di lavoro, perché giustamente la pubblica amministrazione se ne frega che da lunedì al venerdì tendenzialmente la gente lavori, quelli che ce l'hanno un lavoro. Ah sì, ecco, l'ultima notizia, l'ultima semestre mi ha scritto un ristoratore di Trento dicendo: tra scegliere se licenziare 7 dipendenti o aprire 7 giorni su 7 ho scelto la seconda strada, e devo dire che dopo 2 anni la scelta è stata premiante, aprire il ristorante 7 giorni su 7 mi ha permesso di non licenziare. Sarà un caso isolato, ma tant'è. -0,88% Milano, -0,23% Parigi, +0,20% Francoforte, +0,20% anche Londra, in varia alta l'America. Telecom Italia oggi forte, vista la giornata, +2,80%. Partiamo da lì con Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Buonasera. Sì, allora Telecom ha registrato la migliore performance sul listino milanese, che invece ha registrato la peggiore performance in Europa. Il titolo Telecom ha superato quota 0,92 euro, chiudendo ai massimi dalla fine di marzo del 2012. Ricordiamo che dal 16 aprile, giorno dell'assemblea che ha nominato nuovo consiglio a maggioranza di indipendenti, il titolo segna un incremento del 7,8%, quindi gli operatori apprezzano il fatto che la società stia andando verso un modello di public company, considerando anche che A giugno potrebbe sciogliersi Telco, che è la holding che controlla il 22,4% di Telecom Italia e ha tra gli azionisti Telefoniche Generali, Intesa San Paolo e Mediobanca. Ricordiamo comunque che i riflettori sono sempre puntati anche sulle mosse di Naguib Saviris, il magnate egiziano che recentemente ha detto di essere pronto di investire in Telecom Italia 1/2 miliardi di dollari. E questo per quello che riguarda Telecom Italia. Devo dire unico titolo in positivo, assieme però a Prismian più 0,86%, Iux più 0,60%, Pop Milano più 0,50%, Mediaset più 0,40%. Mediaset e Pop Milano, però, essendo casi di borsa della settimana, meritano forse un commento anche oggi, Livia. Sì, allora, Popolare Milano, come si vede, è l'unico titolo positivo del comparto bancario che risente sempre dei timori sugli aumenti di capitale e sugli stress test. La Popolare di Milano siamo il mercato in attesa di conoscere il prezzo dell'aumento di capitale da 500 milioni di euro che partirà lunedì. Ricordiamo che i diritti saranno negoziabili fino al 16 maggio e che l'operazione si concluderà il 23 maggio. Per quanto riguarda Mediaset, che ha registrato un rialzo dello 0,40%, chiudendo in positivo anche oggi, ieri c'è stata l'assemblea degli azionisti e le scommesse riguardano le novità sul business della Pay TV, nel quale appunto Mediaset sta cercando un socio, si fanno i nomi di Al Jazeera e di Canal Plus, di Vivendi. Dall'altra parte sono arrivate delle stime di ripresa sul mercato pubblicitario, gli analisti si aspettano, dopo un trimestre in calo del 2,5%, dei segnali di ripresa per il mese di aprile, quindi le scommesse probabilmente riguardano anche una ripresa nella raccolta pubblicitaria. Allora, un attimo di pazienza per quello che riguarda la borsa, ci torniamo dopo il traffico. A chi continua a scrivere, ma lei lavorerebbe in radio sabato e la domenica? A parte che l'ho fatto, faccio notare che questa radio è aperta anche sabato e la domenica, ci sono i turni e quindi c'è qualcuno che lavora il sabato e la domenica e poi resta a casa gli altri giorni della settimana, non è che la radio spegne sabato e la domenica. Infine, a chi mi dà dello sfascia famiglie e servo dei cinesi, faccio notare che stanno scrivendo molti ascoltatori che hanno lavori in cui si lavora anche a turno e non hanno famiglie sfasciate, mi scrive un dipendente, mi scrive, non sto dicendo che sia il migliore del mondo possibile, è una proposta, e se no uno faccia l'orario che vuole, ma non si lamenti se la domenica la gente va nel centro commerciale, tutto qui. Allora, Livia Zancaneri, i titoli positivi li abbiamo raccontati, Telecom Italia più 2,80%, la Pop Milano più 0,50% e Mediaset più 0,40%. Andiamo su chi ha più ceduto oggi, Monte dei Paschi meno 4%, e qui insomma ci sono state dichiarazioni anche di Viola in assemblea degli azionisti, quella di ieri. Sì, l'amministratore delegato ieri in assemblea ha detto di auspicare che l'aumento di capitale da 5 miliardi sarà sufficiente. Ricordiamo che l'incremento è stato portato a 5 miliardi dai precedenti 3 miliardi di euro. A pesare sulle quotazioni anche la notizia che la banca dovrà pagare 90 milioni di interessi in più del previsto al tesoro in relazione al pagamento dei Monti Bond, una notizia che gli analisti non reputano positiva. Ricordiamo inoltre che oggi è debole tutto il settore bancario in Europa, come dicevamo prima, sui timori di nuovi imminenti aumenti di capitale, dopo che la BCE ha detto di aspettarsi che le banche coprano eventuali carenze di capitali entro 9 mesi dalla pubblicazione dei risultati degli stress test che sono previsti per ottobre. Secondo gli esperti, questo termine, cioè il termine di 9 mesi, è molto più breve rispetto a quanto precedentemente previsto. Ancora per quello che riguarda altri titoli oltre a Monte dei Paschi, segnalo Popolare Emilia Romagna meno 2,90%, Tenaris meno 2,70%, G-Tech meno 2,70%, Saipem meno 1,90% come Unicredit, Fiat meno 1,70% come Boots Unice, un World Duty Free pure perde l'1,70%, Unipolsai l'1,50%, Atlantia l'1,40%, Enel l'1,20%, Ubibank meno 1,15%. Come il Banco Popolare. Dunque, il tono debole delle banche da molti viene visto come conseguenza degli stress test che partiranno a maggio. Ce ne siamo occupati ieri, ma che è? Se ne accorge oggi il mercato? Ieri diciamo che sul mercato c'era molta euforia legata ad altri aspetti, quindi probabilmente quando c'è l'euforia si segue quell'ondata di euforia, il giorno dopo scattano i realizzi e si segue quell'ondata. Solitamente sì. Funziona così. Ecco, diciamo così, non è che si possa trovare una spiegazione per una borsa, che un senso per questa borsa che senso non ne ha, per parafrasare Vasco Rossi, e andiamo avanti con Ansaldo. Sì, allora Ansaldo ha chiuso in territorio positivo, gli operatori riferiscono che si tratta di una reazione al balzo di Alstom, che a Parigi ha guadagnato oltre il 9%, sulla notizia appunto che la società sarebbe pronta a considerare la proposta di General Electric, anche se solo per il business dell'energia. Gli operatori collegano anche la performance di Finmeccanica al balzo di Alstom. Il titolo Finmeccanica positivo in mattinata ha poi fatto meglio del listino milanese e ha chiuso in leggero calo dello 0,15%. Sui generali oggi faccio notare che il numero uno Mario Greco in assemblea degli azionisti ha detto che il gruppo conta di raggiungere gli obiettivi prima del tempo e quindi di rivedere in positivo la politica dei dividendi per gli azionisti. Sul fronte dei titoli migliori e peggiori in assoluto, devo dire che oggi sul fronte dei migliori abbiamo Mondo TV France più 16,5, AF più 16,40, Digital Brothers più 5,50, Orange, Safilo più 4,70, Orange più 4,40, ma appunto anche Ansaldo e poi Piaggio più 3,40. Fronte opposto, Monte dei Paschi, BNP Paribas meno 3,90 e poco altro, Sintesi meno 3%. Tra l'altro in borsa a New York Twitter ha avuto un tonfo vero e proprio, ancora confermato, Livia, meno 12,40% perdeva dopo un rallentamento nella trimestrale a 37,40 dollari. E per quello che riguarda invece altri due titoli che osserviamo spesso, Generali e Luxottica, chiuderei con quelli, Livia. Sì, allora Generali ha chiuso in negativo, seguendo probabilmente l'andamento dei finanziari a Milano, ha segnato meno 0,88%. Come dicevi tu, oggi c'è stata l'assemblea dei soci Matrieste, il numero uno Greco ha detto di aspettarsi più dividendi e utili in crescita già dal 2014. Per quanto riguarda Luxottica, il titolo ha segnato meno 0,29%, la società ha dato i conti, ha mostrato una trimestrale che è stata definita non brillante da parte di alcuni analisti, che tuttavia hanno apprezzato la solidità e l'accelerazione mostrata dal gruppo. Ma ad aprile ricordiamo che Luxottica ha chiuso il primo trimestre con un utile netto piuttosto stabile rispetto al stesso periodo dell'anno precedente, 157 milioni, un fatturato in crescita di oltre il 4% a 1,8 miliardi di euro. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Allora, giustamente chiedono alcuni ascoltatori che le liberalizzazioni riguardino anche i servizi resi ai cittadini, il ritiro degli esami all'ospedale. È vero, non ho mai capito perché uno possa ritirarle solo in 2 ore o la mattina o il pomeriggio. Altri parlano del catasto perché sono geometri. Altri sottolineano che va bene la flessibilità negli orari, ma bisognerebbe aumentare i dipendenti. Beh, quando aumenta il giro d'affari, aumenti i dipendenti. In altri casi è l'unico modo per sopravvivere, essere aperto quando altri sono chiusi, ed essere chiuso quando altri sono aperti. E poi saranno i clienti e il mercato a dimostrare che questo ha un senso o no. A chi mi dice: lei si fida a bere il caffè dai cinesi? Boh, insomma, no, nel senso che faccio altre cose, ma dico semplicemente che se hanno comprato bar che avevano poco valore aggiunto, evidentemente che ci fosse un cinese o un italiano dentro il bancone cambiava poco. Forse si può inventare qualcosa anche lì. Intanto c'è il GR24, poi parliamo della nostra l'Italia. Qualcuno dice che è colpa mia, che non voglio, che sono un esterofilo. Beh, a me sembra che l'Italia l'abbiano già comprata i capitani coraggiosi, abbiano perso soldi, e poi andiamo anche sulla disoccupazione. 18 e 8 minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, l'Alitalia e poi nonostante i numerosi messaggi sulle liberalizzazioni, alcuni scrivono che insomma questo è un paese in cui di ben altristi. Sono d'accordo, nel senso che il problema è sempre un altro. E poi in realtà le sacche di conservazione, io non dico che sia meglio adesso, dico semplicemente che è inutile continuare a dire che si stava meglio prima. Soccombi in questo modo, cerchiamo delle soluzioni, fermo restando che poi i consumi non è che ripartano solo in base alla liberalizzazione degli orari, ripartono quando si crea occupazione, quando si crea potere d'acquisto, su questo non ci sono dubbi. Però attenzione, che è dimostrato che maggiore offerta crea anche, compatibilmente con potere d'acquisto, un po' più di domanda. Si chiama sindrome IKEA, se non ricordo male, e cioè il fatto che tu vai all'IKEA per comprare una cosa e poi esci e ne hai comprate quattro, per cui so. Allora, l'Alitalia, appunto, c'è qualcuno che mi ha scritto: per colpa di esterofili come lei stiamo cedendo la nostra compagnia di bandiera. Faccio notare che l'Alitalia ce la siamo pagata noi italiani per tutti questi anni, che ci siamo beccati anche la Bad Company nel piano di salvataggio, di rilancio della CAI con i capitani coraggiosi, che non è servito, visto che c'è stato poi bisogno di un nuovo aumento di capitale varato da poco, e l'Alitalia continua a perdere tra i 500 e i 700 mila euro al giorno. Allora, quindi non è un problema di essere esterofili o nazionalisti, qui è un problema di non continuare a pagare noi l'Alitalia e trovare una soluzione che permetta all'Italia di avere una compagnia di bandiera che porti anche e che abbia le rotte nei paesi dove la ricchezza si sta producendo, quindi nei paesi emergenti. Quindi errore strategico fatto a suo tempo nel concentrarsi sulla rotta, soprattutto Roma-Milano, sulle rotte nazionali, dimenticando quello che stava capitando nel resto del mondo, con la conseguenza, tra le altre cose, come abbiamo spiegato molte volte, che i ricchi cinesi, indiani, indonesiani, brasiliani atterrano a Francoforte, a Monaco, a Parigi, a Londra, spendono i soldi lì e poi quando arrivano in Italia e magari comprano prodotti italiani, ma pagando le tasse in Francia, in Germania, l'IVA dico, e Gran Bretagna, quando arrivano in Italia hanno ormai pochi soldi. Faccio notare che la metà di tutti i beni di lusso venduti l'anno scorso, pari a 480 miliardi, li ha comprati un cinese, non una sola persona come mi ha chiesto una volta uno, ma un cinese in generale, e che metà di questi acquisti fatti dai cinesi sono stati fatti fuori dalla Cina, quindi New York, Londra, Francoforte, Monaco, Parigi, quasi mai Roma, Milano, perché non arrivano direttamente qua. Allora, mi sembra che mentre il governo cerca di capire quali siano le nuove richieste, le richieste di Etihad, anche Air France si dica interessata a entrare, ad aumentare la sua quota in Alitalia. Ne parliamo con Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Celestina, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Allora, c'è da un lato il ministro Lupi che sta vagliando attentamente quanto il piano proposto da Etihad porti a un rilancio vero e deve tornare a essere l'Italia una grande compagnia internazionale, è legato poi anche al rilancio del sistema degli aeroporti, e poi l'altro fronte mi sembra Air France, che forse ob torto collo fa buon viso a cattivo gioco. Sì, in effetti hai ragione, proprio oggi almeno tu me lo dici oggi, prego. Sì, concordo insomma con la tua riflessione. In effetti oggi il numero uno di Air France, KLM, Alexandre Juniac, ha fatto delle dichiarazioni che in qualche modo sembrerebbero riaprire insomma lo spiraglio di un possibile ritorno in campo dei francesi, che lo ricordiamo insomma si sono sfilati dall'aumento di capitale a cui tu accennavi insomma in apertura di trasmissione, quindi hanno diluito la loro quota dal 25% al 7%, ma sostanzialmente avevano posto condizioni molto simili a quelle che insomma in questo momento l'Italia deve fronteggiare per la richiesta di insomma di possibili nozze con Etihad. E quindi De Juniac stamattina all'Execo ha detto appunto questo, cioè in effetti le richieste fatte dagli emiratini sono molto simili alle nostre, quindi se una risposta arriverà e arriverà in una certa direzione, perché no, potremmo anche valutare così di tornare a investire. Tra l'altro lo ricordiamo, i francesi sono legati agli arabi, insomma alla compagnia di Abu Dhabi, da accordi commerciali, quindi non è che si muovono insomma in conflitto, per cui è possibile appunto che poi in un secondo tempo in qualche modo appunto anche France possa possa, così, possa tornare in campo e provare a rientrare, insomma, dopo essersi tirata indietro rispetto a quello che è successo a novembre, insomma, dello scorso anno. Quindi potremmo dire che là dove non ce la fecero i francesi, ce la potranno fare gli Emirati Arabi, Abu Dhabi? Sì, guarda, potrebbero farcela, ma sostanzialmente per una differenza di non poco conto, cioè le condizioni sono senz'altro non molto diverse, però gli arabi hanno, come dire, i soldi, hanno una liquidità che ad Alitalia serve come il pane, perché come ricordavi tu la cassa si brucia, insomma, giorno dopo giorno cominciano ad esserci anche problemi per il pagamento degli stipendi, e gli arabi, è vero, pongono condizioni molto stringenti, molto precise, però come contropartita offrono appunto la possibilità di entrare nel capitale d'Italia con, si parla insomma di 560 milioni di euro che in questo momento sono ossigeno puro. I francesi invece non avevano questa disponibilità, anche perché loro sono impegnati a loro volta con un piano di ristrutturazione molto, molto pesante, perché devono ridurre insomma una montagna di debito che è pari a 5 miliardi e 500 milioni, quindi non possono certo permettersi di troppi sforzi al di là dei confini nazionali, quindi c'è una differenza sostanziale, insomma, tra i due soggetti. Quindi questo potrebbe agevolare. Ecco, per quello che riguarda invece il fronte del governo, perché insomma Lupi mi sembra che oggi non sia andato molto al di là delle dichiarazioni di intenti, cioè vogliamo valutare il piano se il rilancio è serio, deve tornare a essere una grande compagnia internazionale, va rilanciato anche il sistema aeroporti. Alla fin fine la tua sensazione è che il governo prenda atto delle richieste di Etihad, ma senza un grosso potere di trattativa? Beh, diciamo che il governo prende atto delle richieste, però il governo sa anche molto bene che un impegno dell'esecutivo, insomma, è assolutamente necessario in questa partita, insomma, perché molte delle richieste, alcune delle richieste che gli Emirati avanzano, chiamano in causa direttamente il governo, almeno sulla parte del rilancio di Linate, come pure sulla questione di garantire l'alta velocità ferroviaria. Quindi diciamo, il governo non può sicuramente tirarsi indietro. Quello che Lupi dice, tra l'altro con maggiore prudenza rispetto a dichiarazioni che aveva fatto nei giorni scorsi, è che comunque all'Italia deve restare una compagnia internazionale, quindi non possono essere accolte offerte che vadano verso un svuotamento, comunque un eccessivo impoverimento dell'ex compagnia di bandiera, come di fatto si era paventato, se ti ricordi, insomma, in molti dei rapporti che sono fatti in questi mesi, quando si diceva insomma gli arabi vengono a trasformare l'Italia in una compagnia regionale. Ecco, insomma, lui è andato alla Camera dopo aver incontrato Renzi e avergli illustrato appunto le richieste di Etihad, per ribadire il concetto, per porre dei paletti, ok? Noi siamo disponibili ad accogliere delle richieste e a metterci anche in qualche modo la faccia, però insomma non ci possono essere, no, diciamo, piani che impoveriscano troppo. Sì, oddio, adesso diciamola tutta. Io non ho, il piano l'ho letto come l'hai letto tu, come l'hanno letto gli ascoltatori. Trasformare Fiumicino in un hub di tutti i voli e di Etihad anche di Etihad verso il nord e il Sud America mi sembra un piano personale, così letto sulla carta, interessante. Devo dire che se proprio parliamo del rischio di trasformare l'Italia in una compagnia regionale, io lo vedevo di più con Air France a suo tempo, cioè non era un mistero che i francesi puntassero a portare tutti i voli a lunga distanza su Parigi da Milano o anche da Roma, per cui su questo andiamoci cauti, nel senso che vediamo. Chiaro che poi Etihad non fa nessun regalo all'Italia, per parafrasare il mitico Besozzi, quel che è certo però è che all'Italia così com'è non regge, poi tutti gli altri piani li guarderemo, no? Perché vedo alcuni ascoltatori che scrivono come se l'Italia fosse un gioiellino da preservare. Beh, ecco, attenzione su questo. Grazie, e vedremo poi quale sarà la risposta alla risposta di Etihad da parte del governo e dei vertici di Alitalia. Grazie a Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Together. Una risposta però c'è già da parte di Susanna Camusso, leader della CGIL, che dice se l'accordo tra l'Italia e Etihad viene costruito sui licenziamenti e non sul piano di sviluppo, della compagnia aerea si parte male. Allo stato noi non conosciamo la lettera di intenti di Etihad, conosciamo quello che era il piano presentato dall'Italia, sul quale abbiamo discusso, abbiamo fatto un accordo sindacale che per noi vale. Nel momento in cui conosceremo qual è il piano industriale, quali sono gli impegni di investimento che si prende Etihad, che ci sono, come dire, dei fatti concreti, su quelli come sempre discuteremo. Certo che se, come dire, tutto il dibattito lo vogliamo costruire sul meccanismo, si farà o non si farà l'accordo con Etihad in ragione di quanti licenziamenti i sindacati sono disposti ad accettare, si è impostata male la discussione. Ho capito, però cara Camusso, non si può neanche far finta di ignorare che in questo momento all'Italia così non regge, bisognerà parlare anche di eventuali esuberi, non solo di quelli, ci mancherebbe, ma è chiaro che quella è una condizione fondamentale se i conti non tornano e il gruppo continua a perdere tra i 500 e i 700 mila euro al giorno, dopo che ne perdeva un milione al giorno, ok? Allora anche qui, belle le dichiarazioni di intenti, poi confrontiamoci però sulla realtà. Mi scrive un'ascoltatrice: lei vede solo business, ma i valori veri della vita dove sono? È per colpa delle persone come lei che siamo arrivati a queste condizioni. E va buon. Together. La disoccupazione a marzo ha segnato il 12,7%, è rimasta ferma, meno 0,1% sul mese precedente. Anche la disoccupazione giovanile resta quindi a un livello altissimo, al 42,7%, stabile su febbraio, però rispetto a un anno prima siamo al 3% in più. Il dato si confronta e si tiene in realtà con un altro dato che riguarda i prezzi al consumo. L'inflazione ad aprile è leggermente risalita allo 0,6%. Rispetto allo 0,4% di marzo, ma i prezzi per esempio del carrello della spesa rallentano, più 0,4%, siamo ai minimi dall'agosto del 2010, in una giornata in cui l'inflazione anche a livello europeo ha dato un leggerissimo segno di rialzo, ed è una cosa positiva perché tutti temiamo la deflazione. E a livello generale dell'Europa poi, per esempio, risalita in Spagna, a livello europeo ha fatto 0,7% contro lo 0,5% di marzo. Enrico Giovannini, ex ministro del lavoro del governo Letta ed ex presidente dell'Istat per 4 anni, dal 2009 al 2013, autore tra l'altro di un libro che è appena uscito, Scegliere il futuro, conoscenze politiche al tempo dei big data. Buonasera. Buonasera. La sentiamo un po' basso, chiedo di alzare il volume in regia. Allora, mi dà un commento sulla disoccupazione? Insomma, per carità, qua il bicchiere bisogna guardarlo mezzo pieno, almeno non sale, però è sempre record. E anche sull'inflazione, che almeno non cala, anche se siamo sempre a rischio deflazione. Prego. Sull'inflazione abbiamo questo leggero aumento che forse potrebbe essere il segnale che appunto il tasso di inflazione non scenderà ulteriormente, e quasi tutto dovuto all'energia, cioè al prezzo della benzina, e ad altri prezzi che però non cambiano, diciamo, la tendenza di una bassa inflazione. E dall'altro punto di vista, la disoccupazione, il tasso di disoccupazione è praticamente stabile da ottobre. Al di là delle piccole oscillazioni che c'è stato in qualche mese, e la buona notizia di oggi è che a marzo l'occupazione ha ripreso a crescere. Se guardiamo a tutto il primo trimestre, questi sono i dati appunto di marzo, ormai l'occupazione sembra aver smesso di cadere, e quindi c'è questo primo segnale, coerentemente con la ripresa dell'economia che appunto già nel quarto trimestre ha segnato un aumento del PIL, e ci si aspetta che anche nel primo trimestre di quest'anno la tendenza alla ripresa venga consolidata. Detto questo, naturalmente i valori assoluti, cioè il tasso di disoccupazione, il tasso di disoccupazione giovanile, sono altissimi, ma questo non può cambiare certo in un mese. Ecco, su questo lei vede segnali di maggiore resistenza sulla disoccupazione o sull'inflazione? Perché dico che le due cose si tengono. È chiaro che il timore che ha la Banca Centrale Europea, che l'Europa, che l'area euro finisca in una deflazione, prezzi in calo, che vuol dire non solo rimandare i consumi, ma anche e soprattutto che i debiti dei vari paesi sono più cari, perché l'inflazione erode il valore reale. Quindi se tu hai un debito di 1 milione di euro, dopo un anno con un'inflazione poniamo al 5%, hai un debito che vale 5% in meno. Se hai una deflazione, il tuo debito in termini reali è ancora più costoso e l'Italia ha il debito più grande dell'area euro. Dicevo, i segnali più incoraggianti, diciamo così, arrivano secondo lei dalla disoccupazione o dall'inflazione? Ma dalla disoccupazione, o meglio dall'occupazione. Perché sono incoraggianti? In primo luogo un dato che forse non è stato colto abbastanza anche dagli analisti. L'occupazione nell'industria ha ripreso a crescere dal terzo trimestre del 2013, cioè quando la produzione ha leggermente cominciato nuovamente a crescere, mentre settori come il terziario e le costruzioni sono ancora in difficoltà. Questa tendenza all'aumento della produzione industriale, del fatturato, l'abbiamo vista anche nel primo trimestre di quest'anno e quindi è probabile che quando l'Istat ci darà i dati disaggregati per settore scopriremo che questo aumento occupazionale viene soprattutto dall'industria. Anche il riassorbimento della cassa integrazione che si è vista nella seconda parte del 2013 era un segnale che anticipava poi la possibile aumento dell'occupazione. Quindi questo è un segnale positivo perché insieme alla crescita del reddito delle famiglie, io vorrei ricordare come già alla fine dell'anno scorso, quindi qualche mese fa, il reddito disponibile delle famiglie aveva ricominciato a crescere dopo molti trimestri, quasi 2 anni di riduzione. Ecco, questo vuol dire più consumi, vuol dire delle aspettative più elevate, abbiamo visto anche che il clima di fiducia delle famiglie sta migliorando. Questo si tradurrà immediatamente in maggiore spesa e quindi maggior consumo? Molto dipenderà dalla incertezza. E quindi Sappiamo infatti che sia gli 80 euro in busta paga che un leggerissimo aumento dell'occupazione perché si traducono in consumi e quindi anche in una leggera ripresa dell'inflazione, hanno bisogno di un altro elemento che è più psicologico e cioè un po' di fiducia nel futuro, se no gli 80 euro me li tengo in casa, diciamocela tutta. Infatti abbiamo visto in questo sondaggio fatto da SVG l'altro giorno che 40% degli italiani hanno detto questi 80 euro li metterò a risparmio, anzi dobbiamo ricordare che il tasso di risparmio appena l'economia ha ricominciato a muoversi è cresciuto, proprio perché l'incertezza frena la spesa. Però questa è proprio la ragione per cui il dato occupazionale può essere un segnale importante, soprattutto se confermato nei prossimi mesi, di una prospettiva più positiva che potrebbe indurre anche a più consumi. Sì, devo dire che lì forse un elemento confortante arriva dall'indice di fiducia dei consumatori che è tornato a salire, però vediamo, è troppo presto per dire che una rondine fa primavera. In realtà sono vari mesi perché ha ricominciato a salire quando come governo Letta abbiamo iniziato a giugno dell'anno scorso. E vabbè, Giovannini, come ex ministro gliela passo. Dicevo che una rondine non fa primavera visto anche il tempo che c'è oggi in mezza Italia. Mi sembrava d'obbligo la battuta. Grazie all'ex ministro ed ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Together. Cosa prima di chiudere lo voglio dire, attenzione, parte domani il piano Garanzia Giovani, è rivolto a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano né seguono alcun corso formativo, i cosiddetti NEET. Da domani sarà possibile registrarsi sul portale nazionale Garanzia Giovani, www.garanziagiovani.gov.it. Verranno poi chiamati i giovani che si registrano per un colloquio da cui scaturirà un profilo. Sulla base di questo profilo entro 4 mesi sarà fatta una proposta concreta di tirocinio, formazione o lavoro, contratto di apprendistato, corso di formazione e quant'altro. Le risorse disponibili sono 1,5 miliardi, di cui 1 miliardo di fondi europei, l'altra sono fondi nazionali, però solo poche regioni hanno ancora firmato l'accordo con il governo. Si muovono le altre, quelle virtuose sono state Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Sardegna, a giorni arriveranno Toscana e Veneto. Speriamo che tutti i presidenti delle regioni si muovano su questo piano che può dare qualche possibilità a chi non studia, non lavora e non ha formazione. Io ringrazio invece Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Focus Economia torna venerdì dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata e anche, per chi se lo può permettere, di un buon ponte. Radio 24, la passione.